terzo anello, ad alta voce, Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati. Drogo giunse verso le 5 a una piccola locanda, là dove la strada correva sul fianco della gola. In alto, come un miraggio, si levavano caotiche creste di erba e di terra rossa, monti desolati, dove forse mai era stato l'uomo. Nel fondo correva il torrente. La carrozza si fermò sul breve piazzale dinanzi alla locanda, proprio mentre passava un battaglione di moschettieri. Drogo vide passargli attorno volti giovanili, rossi per il sudore e la fatica, occhi che lo fissavano con meraviglia. Solo gli ufficiali lo salutavano. Sentì una voce fra quelli che si erano allontanati. «Accomodo, il vecchietto!» Non seguì però nessuna risata. Mentre loro andavano alla battaglia, lui scendeva la pianura vile. «Che ridicolo ufficiale!» pensavano probabilmente quei soldati, a meno che non gli avessero letto sul volto che anche lui andava a morire. Non riusciva a liberarsi di quel vago intontimento simile a nebbia. Forse era stato il dondolio della carrozza, forse la malattia, forse semplicemente il dolore di veder finire miseramente la vita. Non gli importava più di nulla, assolutamente. L'idea di rientrare nella sua città, di girare a passi strascicati per la vecchia casa deserta, o di giacere in un letto per lunghi mesi di noia e di solitudine, gli faceva paura. Non aveva nessuna fretta di arrivare. Decise di passare la notte nella locanda. Aspettò che il battaglione fosse interamente passato, la polvere sollevata dai soldati ricaduta sui loro passi e il rombo dei loro carriaggi coperto dalla voce del torrente. Poi scese adagio dalla carrozza, appoggiandosi alle spalle di Luca. Sulla soglia era seduta una donna, intenta a lavorare di calza, e ai suoi piedi dormiva, in una rustica culla, un bambino. Drogo guardò stupito quel sonno meraviglioso, così diverso da quello degli uomini grandi, così delicato e profondo. Non erano ancora nati in quell'essere i torbidi sogni. La piccola anima navigava spensierata, senza desideri o rimorsi, per un'aria pura e quietissima. Drogo stette fermo a rimirare il bambino dormiente. Un'acuta tristezza gli entrava nel cuore. Cercò di immaginare se stesso immerso nel sonno. Singolare Drogo, che mai egli aveva potuto conoscere. Si prospettò l'aspetto del proprio corpo, bestialmente assopito, scosso da oscuri affanni, il respiro greve, la bocca socchiusa e cadente. Eppure anche lui un giorno aveva dormito come quel bambino. Anche lui era stato grazioso e innocente, e forse un vecchio ufficiale malato si era fermato a guardarlo con amaro stupore. «Povero Drogo», si disse, e capiva come ciò fosse debole, ma dopotutto egli era solo al mondo e fuor che lui stesso. Nessun altro lo amava. si trovò seduto su di una larga poltrona in una camera da letto. Ed era una sera stupenda che lasciava entrare dalla finestra l'aria profumata. Drogo guardava atono il cielo che si faceva sempre più azzurro, le ombre violette del vallone, le creste ancora immerse nel sole. La fortezza era lontana, non si scorgevano più nemmeno le sue montagne. Doveva essere quella una sera di felicità per gli uomini, anche di media fortuna. Giovanni pensò alla città nel crepuscolo, le dolci ansie della nuova stagione, giovani coppie nei viali lungo il fiume, dalle finestre già accese, accordi di pianoforte, il fischio di un treno da lontano. Immaginò i fuochi del bivacco nemico in mezzo alla pianura del nord, le lanterne della fortezza che oscillavano al vento, la notte insonne e meravigliosa, prima della battaglia. Tutti, in un modo o nell'altro, avevano qualche motivo, anche piccolo, per sperare. Tutti, fuorché lui. Di sotto, nella sala comune, un uomo, poi due insieme, si erano messi a cantare una specie di canzone popolare di amore. Nel sommo del cielo, là dove l'azzurro si faceva profondo, brillarono tre o quattro stelle. Drogo era solo nella camera. L'attendente era sceso a bere un bicchiere. Negli angoli e sotto i mobili si accumulavano ombre sospette. Giovanni, per un istante, sembrò non resistere. Nessuno, in fin dei conti, lo vedeva. Nessuno lo avrebbe saputo al mondo. Il maggiore Drogo, per un istante, sentì che il duro carico dell'animo suo stava per rompere in pianto. Proprio allora, dai fondi recessi, uscì limpido e tremendo un nuovo pensiero: la morte. Gli parve che la fuga del tempo si fosse fermata come per rotto incanto. Il vortice si era fatto negli ultimi tempi sempre più intenso, poi, improvvisamente, più nulla. Il mondo ristagnava in una orizzontale apatia e gli orologi correvano inutilmente. La strada di Drogo era finita, ed eccolo ora, sulla solitaria riva di un mare grigio e uniforme, e attorno né una casa, né un albero, né un uomo, tutto così da immemorabile tempo. Dagli estremi confini egli sentiva avanzare su di sé un'ombra progressiva e concentrica. Era forse questione di ore, forse di settimane o di mesi, ma anche i mesi e le settimane sono ben povera cosa quando ci separano dalla morte. La vita dunque si era risolta in una specie di scherzo. Per un'orgogliosa scommessa tutto era stato perduto. Fuori il cielo era diventato d'un azzurro intenso. All'occidente, tuttavia, restava una striscia di luce sopra i violetti profili delle montagne, e nella camera era entrato il buio. Si distinguevano unicamente le sagome minacciose dei mobili, il biancore del letto, la lucida sciabola di Drogo. Di là, capiva, egli non si sarebbe più mosso. Avvolto così dalle tenebre, mentre di sotto continuavano le dolci canzoni fra gli arpeggi di una chitarra, Giovanni Drogo sentì allora nascere in sé una estrema speranza. Lui solo al mondo, e malato, respinto dalla fortezza come peso importuno, lui che era rimasto indietro a tutti, lui timido e debole, osava immaginare che tutto non fosse finito. Perché forse era davvero giunta la sua grande occasione, la definitiva battaglia che poteva pagare l'intera vita. Thank you. avanzava contro Giovanni Drogo l'ultimo nemico. Non uomini simili a lui, tormentati come lui da desideri e dolori, di carne da poter ferire, con facce da poter guardare, ma un essere onnipotente e maligno. Non c'era da combattere sulla sommità delle mura, fra rombi e grida esaltanti, sotto un azzurro cielo di primavera, non amici al fianco la cui vista rianimi il cuore, non l'acre odore di polvere e fucilate, né promesse di gloria. Tutto succederà nella stanza di una locanda ignota, al lume di una candela, nella più nuda solitudine. Non si combatte per tornare coronati di fiori in un mattino di sole, fra i sorrisi di giovani donne. Non c'è nessuno che guardi, nessuno che gli dirà bravo. Oh, è una ben più dura battaglia di quelle che lui un tempo sperava. Anche vecchi uomini di guerra preferirebbero non provare, perché può essere bello morire all'aria libera, nel furore della mischia, col proprio corpo ancora giovane e sano, fra trionfali echi di tromba. Più triste è certo morire di ferita, dopo lunghe pene, in un camerone d'ospedale, più melanconico ancora finire nel letto domestico, in mezzo ad affettuosi lamenti, luci fioche e bottiglie di medicine. Ma nulla è più difficile che morire in un paese estraneo ed ignoto, sul generico letto di una locanda, vecchi e imbruttiti, senza lasciare nessuno al mondo. Coraggio, Drogo. Questa è l'ultima carta. Va incontro alla morte da soldato e che la tua esistenza sbagliata almeno finisca bene. Vendicati finalmente della sorte. Nessuno canterà le tue lodi. Nessuno ti chiamerà eroe o alcunché di simile. Ma proprio per questo vale la pena. Varca con piede fermo il limite dell'ombra, diritto, come a una parata, e sorridi anche, se ci riesci. Dopotutto la coscienza non è troppo pesante, e Dio saprà perdonare. Questo Giovanni diceva a se stesso, una specie di preghiera, sentendo stringersi attorno a sé il cerchio conclusivo della vita. E dall'amaro pozzo delle cose passate, dai desideri rotti, dalle cattiverie patite, veniva su una forza che mai lui avrebbe osato sperare. Con inesprimibile gioia Giovanni Drogo si accorse d'improvviso di essere assolutamente tranquillo, ansioso quasi di ricominciare la prova. Non si poteva pretendere tutto dalla vita? Così dunque diceva Simeoni. E adesso Drogo ti farà vedere. Coraggio, Drogo. E lui provò a fare forza, a tenere duro, a scherzare con il pensiero tremendo. Ci mise tutto l'animo suo in uno slancio disperato, come se partisse all'assalto da solo contro un'armata. E subitamente gli antichi terrori caddero, gli incubi si afflosciarono, la morte perse l'agghiacciante volto, mutandosi in cosa semplice e conforme alla natura. Il maggiore Giovanni Drogo, consunto dalla malattia e dagli anni, povero uomo, fece forza contro l'immenso portale nero e si accorse che i battenti cedevano, aprendo il passo alla luce. Povera cosa gli risultò allora quell'affannarsi sugli spalti della fortezza, quel perlustrare la desolata pianura del nord, le sue pene per la carriera, quegli anni lunghi di attesa. Non c'era neanche più bisogno di invidiare Angustina. Sì, Angustina era morto in cima a una montagna nel cuore della tempesta. Se n'era andato da par suo, davvero con molta eleganza. Ma assai più ambizioso era finire da prode nelle condizioni di Drogo, mangiato dal male, esiliato fra ignota gente. Solo gli dispiaceva di doversene andare di là con quel suo misero corpo, le ossa sporgenti, la pelle biancastra e flaccida. Angostino era morto intatto, pensava Giovanni. La sua immagine, nonostante gli anni, si era mantenuta a quella di un giovane alto e delicato, dal volto nobile e gradito alle donne. Questo è il suo privilegio. Ma chissà che, passata la nera soglia, anche lui, Drogo, non sarebbe potuto tornare come una volta. Non bello, perché bello non era mai stato, ma fresco di giovinezza. Che gioia! Si diceva Drogo al pensiero, come un bambino, poiché si sentiva stranamente libero e felice. Ma poi gli venne in mente, e se fosse tutto un inganno? Se il suo coraggio non fosse che una ubriacatura, se dipendesse solo dal meraviglioso tramonto, dall'aria profumata, dalla pausa dei dolori fisici, dalle canzoni al piano di sotto, e fra pochi minuti, fra un'ora, egli dovesse tornare il Drogo di prima, debole e sconfitto. No, non pensarci, Drogo. Adesso basta tormentarsi. Il più oramai è stato fatto. Anche se ti assaliranno i dolori, anche se non ci saranno più le musiche a consolarti e invece di questa bellissima notte verranno nebbie fetide, il conto tornerà lo stesso. Il più è stato fatto. Non ti possano più defraudare. La camera si è riempita di buio. Solo con grande fatica si può distinguere il biancore del letto e tutto il resto è nero. Fra poco dovrebbe levarsi la luna. Farà in tempo Drogo a vederla o dovrà andarsene prima? La porta della camera palpita con uno scricchiolio leggero, forse un soffio di vento, un semplice risucchio d'aria di queste notti inquiete di primavera. Forse, invece, è lei che è entrata con passo silenzioso e adesso sta avvicinandosi alla poltrona di Drogo, facendosi forza. Giovanni raddrizza un po' il busto. Si assesta con una mano il colletto dell'uniforme, dà ancora uno sguardo fuori dalla finestra, una brevissima occhiata per l'ultima sua porzione di stelle. Poi, nel buio, benché nessuno lo veda, sorride. Buongiorno, sono Stefano Gallerani. Come abbiamo ascoltato, la storia di Giovanni Drogo termina come è iniziata, nella nuda solitudine di una camera da letto. Il cerchio della sua esistenza si chiude, ma non si risolve in un circolo vizioso. Momenti di generosa malinconia, come la morte tragica e priva di senso di Angustina, hanno illuminato il racconto con improvvisi e rapidi stati di grazia. Congedato dal forte per malattia, proprio quando alcuni indizi fanno sperare nell'ennesima illusione di un'imminente colluttazione, Drogo è costretto a vegliare la luna e ad aspettare la fine in una ignota locanda, lontano dai suoi compagni. La vertigine che ventenne aveva provato, salendo la strada della fortezza, al pensiero d'essere prossimo a rinunciare per un tempo indefinito alle più piccole gioie della vita, ha ora il gusto amaro di un silenzio cattivo. Per un'orgogliosa scommessa, per un breve miraggio, tutto è perduto. Eppure, mentre la morte si approssima, portata da un'aria profumata, Giovanni l'attende con un cuore sereno. L'ultima ora lo trova libero prima ancora di liberarlo dai lacci di un'esistenza consumata nell'attesa. E lui le sorride come 30 anni prima, congedandosi dalla giovinezza, non era riuscito a sorridere alla madre. Il passato e le cattiverie patite gli infondono una forza insperate, finalmente prossimo alla battaglia che definitivamente lo ripaghi di una vita inutile, inoperosa, egli trova una tranquillità ed una forza insperate. Nel sorriso ignoto che Drogo riserva alla morte, si cela il segreto del libro, ed è questo segreto che gli anni hanno tentato di penetrare. Di cosa si compone la vita di un uomo, sembra chiedersi Buzzati, come sarebbe stato ciò che sembrava certo e non è stato? E con un sorriso sfugge d'un tratto al tema della vacuità esistenziale. L'ambiguità stimolante e feconda che si genera da questo sorriso prova l'inesauribile ricchezza di senso di un libro che pone Buzzati ai massimi livelli della letteratura contemporanea. Seppure il contrasto tra la piattezza della realtà apparente e il fiato metafisico che la sommuove si presti alle più diverse interpretazioni, nessuno esaurisce l'effettiva portata del romanzo. E se anche certe atmosfere ai margini tra realtà e allegoria, così come la capacità di dosare quotidiano e simbolico, giustifichino per Buzzati il frequente ricorso di parte della critica al nome tutelare di Kafka, la sconfessione finale del deserto dei Tartari si risolve in un incoraggiamento. Rispetto agli incubi dello scrittore praghese, il pensiero tremendo della fine si traduce in un'esortazione. Da allora, per Buzzati scrivere e forse vivere non sarà più lo stesso. Dopo aver teso un arco fantastico tra le illusioni della giovinezza da un lato e la rassegnazione della vecchiaia dall'altro, Buzzati volgerà la propria attenzione ai fatti più minuti dell'esistenza, alle sceneggiature controluce della vita così come si consuma, nel lento travaglio di un tempo che resta proverbialmente perduto. Quel tanto di surreale che deforma in maniera quasi pop il quotidiano di ciascuno diviene l'interlocutore privilegiato della sua scrittura. Eppure, nelle sue pagine più intime, così come negli articoli ispirati a volte da fatti di cronaca solo all'apparenza insignificanti, o nella pittura, cui Buzzati si dedicherà con sempre maggiore impegno, le note sorde degli anni che passano continueranno a vibrare, così come le penombre invisibili delle occasioni disperse e delle numerose possibilità che non sono giunte a realizzarsi non smetteranno di agitarsi, e di agitare perciò l'inadeguatezza dell'esserci. La macchia nera, la ridotta nuova, continuerà ad ammaliare a lungo le sentinelle sui bastioni, e proprio 40 anni dopo la pubblicazione del Deserto, nel 1980, nel romanzo Aspettando i Barbari, lo scrittore sudafricano Jonathan Maxwell Coetzee interrogherà ancora l'enigma dei Tartari, subendo nel suo terribile e inquietante fascino. Thank you. Massimo Popolizio ha letto Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, postfazione di Stefano Gallerani, regia di Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it